just like you. I wanna be good to you. Ben ritrovati su Coccoli al Silicio dai microfoni di Radio Wombat. Vi auguro una buona serata. Per me è un giorno oggi di speso molto nella direzione di Radio Wombat. Dopo la rassegna stampa di questa mattina torno ai microfoni anche alle 9 di sera, dal che si intuisce che è estate, vanno tutti in vacanza, fa caldo. Anche se tra poco riprenderà a piovere, però la gente c'ha voglia d'estate, quindi rimangono qua solo i più coriacei, tipo, no, più sfigati, tipo me, ecco. E però ho comunque deciso di fare lo stesso la puntata di Coccoli al Silicio, perché era 2 settimane che me ne ero sparito nel che di nuovo la vita mi ha portato altrove, e quindi nell'impossibilità di fare la trasmissione, però ho deciso che tornavo nonostante l'AFA e il clima insostenibile modello Calcutta che vivo attualmente. Sono qua che sto sudando come un maiale, eppure sono fermo e non faccio assolutamente nulla. E la puntata si prefigura abbastanza ricca di notizie. Se mi riesce vi leggerò anche delle cose dall'ultimo numero di Internazionale, che sono piuttosto interessanti, almeno un articoletto di sicuro, visto che l'avevamo già registrato ieri per la rassegna stampa, ma poi questa mattina non ci ho avuto cuore e tempo di riproporlo, e quindi lo ripropongo invece questa sera. È un articolo di senso, diciamo, non esageratamente tecnico, ma più da taglio sociologico, scritto appunto da un sociologo, ma più di così non vi anticipo. Invece la notizia con cui volevo aprire la serata, perché sostanzialmente ne abbiamo già parlato tante volte dei furti di denaro digitale, ecco, ce n'è un altro, quindi io mi pregio di raccontarvelo come ho fatto finora. Questo riguarda una moneta che si chiama Ethereum, l'avevamo già parlato in un'altra occasione almeno, mi sembra, però su un furto avvenuto a un changer giapponese. E invece in questo caso si parla di trafugare i soldini direttamente ai possessori di un wallet Ethereum, cioè di un programma che sostanzialmente gestisce il vostro portafoglio con tutti questi soldini che senz'altro avrete. Io non lo so, io non ce n'ho neanche uno di questi, quindi vo' tranquillo. E il programma che gestisce il wallet e che è interessato da questo problemino è un programma che si chiama GETH, G-E-T-H, non so bene come lo pronuncino, però io lo pronuncio così, poi ve l'ho fatto anche spelling in italiano, quindi qualcosa si capirà senz'altro. Ebbene, questo programma è sostanzialmente che cosa fa? Ma di per sé niente, però siccome è uno di quegli oggetti moderni che utilizzano tutte le tecnologie moderne, per funzionare meglio cosa fanno? Loro di default si mettono sostanzialmente in ascolto su tutte le interfacce di rete che sono sul vostro computer. Quindi supponiamo che voi vi stiate collegando direttamente all'internet, state in realtà esponendo a tutto il mondo una porta, la 8545, che permette a tutti quanti di collegarsi al vostro bellissimo client e quindi di gestire in abbastanza agevole comodità il vostro portafoglio. È una cosa secondo me nobile, cioè questa cosa generosa di condividere i propri soldi con tutti gli altri, di fare scambio, appunto, così di mettere a disposizione le cose con gli altri, se non che è abbastanza inconsapevole, tanto che appunto ci sono soltanto soltanto alcuni gruppi di personaggi che hanno deciso di fare un po' di gruzzolo così, e non è neanche tanto piccolo questo gruzzolo, visto che si parla di qualcosa come 38.642 Ether, e quindi sono, qua lo dice nell'articolo, circa 20.500.000 dollari, così al cambio attuale. E tutti questi soldini, quelli che si calcola siano stati trafugati finora per questo disguido, insomma, questo eccesso di fiducia involontaria che i possessori di questo, gli utilizzatori di questo comodissimo client per gestire i wallet della rete Ethereum diciamo utilizzano e nella loro generosità regalano i soldi a tutti quanti. E questo, diciamo, apre la notizia, apre la puntata. Come sempre, la mia finalità principale è quella di dirvi di diffidare di tutto ciò. State lontani dal denaro digitale e in particolare da questi oggetti strambi, state lontano dal denaro anche in generale, diffidate sempre di tutto ciò. E con questo vi lascio un altro po' di musichina mentre mi preparo con la seconda notizia, e appunto ci avrò bisogno di un pochino di tempo per assestarmi tecnicamente questa sera, perché appunto volendo voglio addirittura farvi ascoltare una voce che non è la mia, poi mi lancio in una lettura di un articolo lunghissimo sempre da internazionale, ma diviso in pezzetti per non annoiarvi troppo. Insomma, c'è del tecnicismo radiofonico dietro questa puntata, che però io purtroppo non possiedo, e quindi c'ho bisogno di tempo anche per fare la schifezza che farò. Cala la musica e mi lancio con questo esperimento, vi faccio sentire una voce diversa dalla mia che vi leggerà un pezzettino di un articolo tratto appunto dall'ultimo numero di Internazionale. Se non mi state ascoltando, mi riascolterete poi, vi dico anche che è quello della settimana dall'8 al 14 giugno 2018. L'articolo è a firma di un personaggio abbastanza conosciuto nell'ambito, diciamo, di chi si occupa di comunicazione, e in particolare dal punto di vista, diciamo, dei sociologi, degli studiosi, insomma, di questi esperti di nuovi media e bla bla bla. Si tratta di Morozov, e forse di lui conoscete il libro L'ingenuità della rete, il lato oscuro della libertà su internet, o no, La libertà di internet. È un libro uscito, credo, forse nel 2010, nel 2011. Comunque era un libro abbastanza controcorrente in quel periodo, perché sostanzialmente non si aggiungeva alla scia degli entusiasti dell'internet, come poteva essere, non lo so, tutta la rivista Wired o tutte quelle cose che erano nate in quel periodo e che esistono ancora oggi, e spesso sono citate anche, diciamo, anche dall'intelligenza critica o la presunta tale che diciamo che produce riflessioni sulla rete, eccetera, eccetera. Ecco, Morozov in realtà non era, cioè andava un po' alle radici a cercare di capire questo ottimismo che caratterizzava questo tipo di ideologia, perché così lui la definisce. E appunto sull'Internazionale che vi ho detto prima ha scritto questo articolo che si intitola Il villaggio globale non c'è più. Il trafiletto che lo presenta, ve lo leggo direttamente, è: l'ideologia di Internet ha fatto gioco degli interessi statunitensi, producendo molte grandi aziende. Nel 2018 però questa ideologia ha il fiato corto. E nell'articolo appunto si delinea la... sostanzialmente una specie di summa, infatti ci tengo a leggere almeno un pezzetto, ecco, almeno non dalla mia diretta voce, ma da una voce che abbiamo registrato ieri sera, perché è una specie di bignami del suo pensiero, e che secondo me è un pensiero quantomeno utile conoscere. Poi io non conosco nel dettaglio il signor Morozov, non so se potrei andare d'accordo con lui, però senz'altro esprime diciamo una visione della rete che mi torna molto più di quella di tanti altri entusiasti tecnofili. E quindi niente, vi lascio ora alla voce di una delle redattrici di Radio Wombat che vi legge un estratto da questo articolo, e poi torniamo per un attimo in diretta, un po' di musica e procediamo con la puntata. Si potevano usare molte lingue per parlare di fine della storia, ma la lingua che esprimeva meglio il concetto era quella della tecnologia. Non c'era mai stato un modo di essere così ottimisti sul capitalismo senza quasi doverne pronunciare il nome. Quello che importava non era chi possedeva la tecnologia, ma come la usava. Queste metafore hanno nascosto verità fondamentali sul rapporto tra tecnologia e potere. La prima è che il villaggio globale era globale solo nella misura in cui il suo principale sostenitore, gli Stati Uniti, aveva bisogno che lo fosse. La seconda è che non c'era niente di naturale o neutrale negli standard, nelle reti e nei protocolli dell'universo digitale. Finita la Guerra Fredda, la maggior parte di questi standard doveva rafforzare l'influenza degli Stati Uniti. La terza verità è che entrare a far parte di una rete unica e inviolabile non è mai stato un lasciapassare per la liberazione nazionale. Armi informatiche, intelligenza artificiale, sorveglianza, interconnettività e digitalizzazione, invece che eliminare vecchi squilibri, ne hanno creati di nuovi. L'ideologia di Internet ha fatto il gioco degli interessi statunitensi, producendo molte delle più grandi aziende tecnologiche del mondo. Nel 2018, però, questa ideologia ha il fiato corto. Il villaggio globale statunitense si sta disintegrando. Si riferiva appunto a questi miti fondanti sui quali gli Stati Uniti hanno cercato di basare la propria egemonia mondiale, insieme chiaramente allo strapotere militare. Comunque Internet sostanzialmente nella visione di Morozov era un po', andava un po' a supporto ideologico di questo tentativo di egemonia, cosa che poi nell'articolo si delinea un po' meglio il suo pensiero anche in maniera pratica. Lui sostanzialmente quello che vorrebbe, che teorizza, è che sostanzialmente gli Stati Uniti si sia scappato un po' fuori il giochino di mano e non si siano resi conto che un sacco di altri attori sono spuntati sul panorama internazionale, ad esempio la Cina e vari altri, ecco, che in qualche modo sono perfettamente in grado di rigirare questo tipo di ideologia su quale loro puntavano per la costruzione appunto di un sistema egemonico contro lo stesso creatore, cioè sanno giocare anche loro a questo gioco. E quindi sostanzialmente gli Stati Uniti a questo punto arretrano. In qualche modo potremmo vedere anche la questione dei dazi, che senz'altro non apre a un villaggio globale, a un'economia globalizzata, eccetera, che era quello che sembrava fosse la svolta nel 2001, ai tempi del G8, per chi se lo ricorda. Era qualcosa di riportato continuamente come concetto, no? Anche per farlo accettare dai sani democratici in qualche modo, ecco, tutto questo si è trasformato nel momento in cui il giochino non è diventato più funzionale, si è trasformato e sostanzialmente non c'è più niente a supporto di questo tipo di ideologia, perché la realpolitik vince, cioè l'esigenza sostanzialmente di mantenere forte l'economia statunitense non giustifica più quel tipo di ideologia che inneggia in qualche modo alla libertà. Ecco. E con questo, diciamo, pensiero del signor Morozov, che appunto vi invito in qualche modo ad approfondire se vi interessa, anche in maniera critica, ripeto, io non è che sono un fan, non conosco nel dettaglio il suo pensiero, però questo articolo mi aveva interessato, soprattutto perché è riportato appunto in un numero nel quale poi si parlava anche di tutto quello che è accaduto al G7, della questione dei dazi e via. E con questo vi lascio di nuovo a un po' di musica, intanto mi preparo anche per la prossima notiziola. E niente, vi lascio l'ascolto di una compilation di Philly Soul, cioè di The Sound of Philadelphia volume 2 precisamente. Il Philly Soul sarebbe come gli appassionati del genere definiscono il sound che nasceva a Philadelphia tra gli anni 60 e 70 sostanzialmente, quindi si parla di soul, funky e queste cosine qua di che a me piacciono tanto e che quindi volentieri vi propongo in maniera noiosa, e nel senso che ogni volta metto sempre musica così, però la trasmissione la faccio io, faccio un po' come mi pare, ecco. La prossima news dal mondo informaticoso riguarda ancora i contrasti sullo scenario internazionale, questa volta non a botte di ideologia internettosa e di chi la interpreta meglio o la sfrutta meglio, ma questa volta basata sul nudo hardware, cioè ci si confronta su un terreno da veri maschi proprio, yeah. E sostanzialmente il terreno sul quale ci si viene a confrontare è chi ha il computer, il super computer più grosso e potente. Allora, teoricamente vince la Cina perché loro ce n'hanno di più, ma ce l'hanno più piccolo, nel senso che ne hanno tanti ma più piccini. Il più grosso l'ha costruito attualmente, proprio ha inaugurato di recente, c'è stato il comunicato stampa di recente, l'America, facendo sostanzialmente mettendo assieme diverse sigle dell'economia tecnologica americana, in particolare guida tutte l'IBM, e quello, insomma, questi signori hanno dato luce, hanno fatto vivere, hanno messo assieme questo computer denominato Summit, il quale è, diciamo, nella classifica dei super super super super computer attualmente quello che sulla carta è più potente. È interessante, al di là dei dettagli tecnici che chi se ne frega, è interessante il cartello di sigle che hanno contribuito alla creazione di questo coso, sostanzialmente questo Frankenstein. Tra queste ci sono delle cose, delle aziende che sono, penso, note, almeno un paio. C'è la Nvidia, forse voi ci avete la scheda grafica, no? Le famose GPU dell'Nvidia, la Red Hat, la distribuzione di Linux, e poi che ci abbiamo? Vabbè, poi ci abbiamo altre sigle più sconosciute, tipo InfiniBand, che si occupa principalmente di networking, credo. E insomma, tutte queste aziende si sono messe assieme, guidate dall'IBM, per produrre il super computer più potente del mondo, perché così ci si confronta tra vere nazioni maschie. E con questa bella notizia spero siate contenti, e vi lascio un altro po' di musica, e poi invece vi parlerò, credo, se non mi prende di parlare di qualcos'altro nei prossimi 30 secondi, mi preparo a questa lettura nella quale affronteremo dei complessissimi problemi matematici che io stesso non capisco, però ho letto questo articolo divulgativo su appunto quel numero di internazionale che mi guida ormai da una settimana, e quindi ve lo ripropongo nella mia calda voce divisa a pezzetti per fare il ripasso e raccontarvi che succede nel mondo della matematica. Ho Oh via, facciamoci coraggio e procedo dunque nella lettura di questo articolo tentando questo esperimento di divulgazione scientifico-matematica radiofonica. L'articolo si intitola La forma dei numeri. Vi leggo anche l'abstract, diciamo, che aiuta a focalizzare, perché io poi, appunto, per non annoiarvi troppo, non è che ve lo leggo veramente tutto, cerco di fare degli estratti, però siccome appunto è un articolo divulgativo ci sta che io estraggo male e vi leggo delle cose che poi tutte assieme non tornano, quindi l'abstract almeno vi aiuta a entrare a capire quello che io avrei voluto cercare di spiegare, ma forse boh. Da millenni i matematici cercano una teoria che unifichi l'aritmetica e la geometria. Ora, un giovane matematico tedesco, Peter Schulze, potrebbe aver trovato la soluzione. E fin qua sembrava una cosa abbastanza comprensibile. Procediamo. I matematici cercano da tempo di costruire un ponte tra queste due antiche discipline e di creare una sorta di grande teoria unificata. Le due discipline sono la matematica e la geometria, per l'appunto. Recentemente, un giovane ricercatore sembra essersi avvicinato alla soluzione del problema. Le sue intuizioni potrebbero non solo unificare la matematica, ma anche contribuire a risolvere uno dei misteri più intriganti di tutti, il rompicapo dei numeri primi. Pom pom pom pom. E questo ve l'ho letto essenzialmente perché a me mi è sembrata una cosa ganzissima, sostanzialmente. Per questo molti pensano che ad agosto riceverà la medaglia Fields, il più importante premio della matematica. E su questo siamo contenti per lui, però alla fine ci tange giusto. Il filosofo e matematico greco Aristotele scriveva: «Non possiamo dimostrare le verità geometriche con l'aritmetica». Ed era anche convinto che la geometria non potesse aiutarci con i numeri. All'epoca tutti la pensavano così. Le dimostrazioni geometriche di Euclide, considerato il padre della geometria, non si basavano su cifre, ma su assiomi logici, linee e forme. I numeri esistevano su un piano diverso e più astratto, inaccessibile con gli strumenti della geometria. E così è stato più o meno fino al 600, quando il francese René Descartes, il buon Cartesio, usò le tecniche dell'algebra, della soluzione delle equazioni e delle manipolazioni di simboli astratti, per mettere la geometria di Euclide su un piano totalmente diverso. Introducendo il concetto che i punti geometrici, le linee e le forme potevano essere descritti da coordinate numeriche proiettate su una griglia, consentì agli studiosi di geometria di usare strumenti aritmetici per risolvere certi problemi. Sarebbe il piano cartesiano, no? L'asse, le due assi, è quella roba lì. Oggi, grazie a questa unione delle due discipline, possiamo lanciare razzi nello spazio e individuare con la massima precisione la posizione degli oggetti sulla Terra. Che bomba! Ma per un matematico puro è una mezza vittoria. Un cerchio, per esempio, può essere descritto da un'equazione algebrica, ma un cerchio disegnato sulla carta millimetrata, ottenuto risolvendo un'equazione, coglierebbe solo un frammento di quella verità. Se cambiassimo sistema numerico, l'equazione resterebbe valida, ma il disegno potrebbe non esserci più utile. E su questo attacchiamo un po' di musichina e poi procediamo con la lettura dell'articolo. We just couldn't get along. Take a good look at me. I'm in misery. Can't you see? But love was a sweet love. Yes, it was. The love alone was complete love. But without you, my life is so dead. I'm sorry to say. You go your way and I'll go my way. It hurts deep inside. Riprendiamo la lettura di questo articolo, La forma dei numeri, tratto dall'ultimo numero di Internazionale. Eravamo rimasti a sostanzialmente quello che avevamo letto prima. Ecco, era uno diciamo, questi problemi storici di iniziare a coniugare la matematica con la geometria. Eravamo rimasti a Cartesio. Ora procediamo oltre. Il nuovo titoletto dell'articolo è Obiettore di coscienza. Perché? E ora ve lo spiego. Arriviamo così agli anni 40 del Novecento e a un altro francese. André Weil era in una prigione alle porte di Rouen perché nei mesi precedenti all'occupazione tedesca della Francia si era dichiarato obiettore di coscienza e aveva rifiutato di arruolarsi, cosa che alla fine si era rivelata una fortuna. In una lettera alla moglie avrebbe scritto: «Se sono in prigione e lavoro così bene, dovrò fare in modo di passarci 2 o 3 mesi all'anno?» Vedi, questo è l'ottimismo sano della persona furba. Ecco, cioè, posso andare in guerra a stancarci, ma non è mica scemo, cioè, insomma. E Weil sperava di trovare una stella di Rosetta che rivelasse la corrispondenza tra l'algebra e la geometria, come quelle, e attenzione, ora devo girare la pagina, dovete avere pazienza perché ci hanno messo l'immagine, quindi la devo proprio girare, è difficilissimo, come quelle tra i geroglifici e il greco antico, un'opera di riferimento che avrebbe permesso ai concetti di una disciplina di essere tradotti in quella dell'altra. Mentre era dietro le sbarre, ne trovò un frammento. Aveva a che fare con l'ipotesi di Riemann, la famosa congettura sulla distribuzione dei numeri più affascinanti, i numeri primi. E ora arriviamo a parlare dei numeri primi. Si pensava già che l'ipotesi potesse avere paralleli geometrici. Negli anni 30 del Novecento era stata dimostrata una sua variante per le curve ellittiche. Invece di cercare di capire la distribuzione dei numeri primi, spiega la matematica Anna Karaini, dell'Imperial College di Londra, che io non so assolutamente come si leggerà questa cosa, vabbè, spero di non doverlo leggere mai più, possiamo considerarla come il numero dei punti di una curva. Weil dimostrò che questo equivalente dell'ipotesi di Riemann poteva essere applicato anche a una serie di curve più complesse. Sembrava che finalmente il muro che divideva le due discipline dai tempi dell'antica Grecia stesse per crollare. La dimostrazione di Weil segna l'inizio della geometria aritmetica, la scienza dal nome meno aristotelico che esista. Negli anni del dopoguerra, nell'ambiente più confortevole dell'Università di Chicago, Weil cercò di applicare la sua intuizione al dilemma dei numeri primi, ma senza riuscirci. A quel punto il testimone fu raccolto da Alexander Grothendieck. Grothendieck, ecco. Lo dico giusto perché è tedesco e va pronunciato correttamente. Uno dei più grandi matematici del Novecento, che negli anni 70 ridefinì la geometria aritmetica. Grothendieck diede alle serie di numeri interi quello che è chiamato uno spettro, abbreviato, e qui segue l'abbreviazione che io non vi leggo, ve la andate a vedere e via così. I punti di questa entità geometrica non disegnabile erano intimamente collegati ai numeri primi. Se fosse riuscito a calcolare la forma, si sarebbe potuta capire la distribuzione dei numeri primi e si sarebbe costruito un ponte tra l'aritmetica e la geometria che passava attraverso l'ipotesi di Riemann. Allora, la forma che cercava Grothendieck per il suo spettro, diciamo, era completamente diversa da qualsiasi altra forma che potrebbe esserci familiare, come i cerchi e i triangoli di Euclide o le parabole di Cartesio. Ecco, non era una roba così. Su un piano euclideo cartesiano, un punto è solo un segno su una superficie piana, ma un punto di Grothendieck, ecco, è più un modo diverso di pensare al piano. Include tutti i suoi potenziali usi, come la possibilità di disegnare un triangolo o un'ellissi sulla sua superficie, oppure di avvolgerlo come una mappa intorno a una sfera. Cioè, stiamo cercando di spiegare sostanzialmente qualcosa che è quasi impossibile immaginarsi, e per quello che poi alla fine lo capiscono in pochi. Perché è difficile. E con questo sentiamo un altro po' di musichina e poi andremo a leggerci il capitoletto che si intitola Tesi di dottorato, e già vi sento che state rabbrividendo per la curiosità. We'll be right back. come vedete, anche man mano che la cosa si fa più intrigante, anche la musica si adegua con questo bel jazzettino che vi introduce al capitoletto, dove entriamo finalmente nel vivo della storia, perché finalmente arriviamo a questo Peter Schultz. Se vi siete persi, siete in buona compagnia. Neanche Grothendieck riuscì a elaborare la geometria dello spettro che stava cercando di individuare, e meno che mai a risolvere l'ipotesi di Riemann. A questo punto entra in gioco il tedesco Peter Schultz. Nato a Dresda nel 1987, cioè 1987, è un giovanetto questo, oggi insegna all'Università di Bonn. Ha gettato le fondamenta del ponte tra aritmetica e geometria nella sua tesi di dottorato, pubblicata nel 2012, quando aveva 24 anni. Schultz ha introdotto un'estensione della geometria di Grothendieck e che ha chiamato geometria degli spazi perfettoidi, capito? Il perfettino, sarà un perfettino saccentino. Ah. La sua costruzione parte da un sistema di numeri noti con il nome di pi adici, che sono strettamente collegati ai numeri primi. Il punto chiave è che, secondo la teoria di Schultz, è possibile far comporre un numero primo, rappresentato dai pi adici a esso associati, come variabile di un'equazione, consentendo così l'applicazione dei metodi geometrici in un contesto aritmetico. Non è facile spiegarla meglio di così, quindi se non avete capito, cazzi vostri sostanzialmente. L'innovazione di Schultz è uno dei concetti più difficili mai introdotti nella geometria aritmetica, che ha una lunga tradizione di concetti difficili. Eh già. Perfino la maggioranza dei matematici di oggi la trova quasi incomprensibile. Ecco. In ogni caso, negli ultimi anni Schultz e pochi altri iniziati hanno usato questo sistema per risolvere o chiarire molti problemi di geometria aritmetica, riscuotendo l'approvazione generale. Con tutte queste prospettive che si stanno aprendo, la questione, insomma, di individuare la forma di questo spettro e dell'ipotesi di Riemann diventa quasi secondaria. I nuovi metodi hanno permesso a Schultz di studiare la geometria nel senso anticipato da Grothendieck, che vedremo se analizzassimo la curva, quella dello spettro, al microscopio, intorno al punto che corrisponde a un numero primo P, cioè ci permette, capito, utilizzando un disegnetto, di individuare un numero primo, che è bomba, visto che è difficilissimo trovarli. C'è ancora molta strada da fare per arrivare a capire la curva nel suo insieme o per dimostrare l'ipotesi di Riemann, ma il suo lavoro ha dato ai matematici la speranza che l'obiettivo possa essere raggiunto. Gli spazi perfettoidi di Schultz hanno permesso di costruire ponti anche in direzioni completamente diverse. Nel 1967 Robert Langlands, un matematico di Princeton che all'epoca aveva 30 anni, scrisse una lettera a Weyl per prospettargli una nuova idea. «Sei disposto a leggerla come pura ipotesi, le sarei molto grato», diceva. «Altrimenti sono sicuro che ha a portata di mano un cestino dei rifiuti». C'è questa comicità un po' da matematici, è fortissima secondo me. È comunque un personaggio molto umile, perché di fronte ha detto «con la testa sotto i vostri piedi, se vuole schiacciarmi io sto fermo». Langlands suggeriva che due branche della matematica completamente distinte tra loro, la teoria dei numeri e l'analisi armonica, potevano essere collegate. In pratica quell'idea conteneva i semi del futuro programma di Langlands, una serie di congiunture molto influenti che alcuni matematici hanno usato come base per la grande teoria unificata capace di collegare le tre discipline matematiche fondamentali, l'aritmetica, la geometria e l'analisi. Capito? Praticamente la Trinità, c'è Gesù e poi c'è la Madonna e poi c'è il Dio, ecco, quei tre lì. E, ora mi sono perso, l'aritmetica, la geometria, l'analisi, un campo di studio molto vasto che a scuola incontriamo con il nome di calcolo. A scuola dove è andato lui. Io li chiamavo l'aritmetica, la geometria, l'analisi. Comunque, centinaia di matematici di tutto il mondo, compreso Schultz, si sono impegnati a completarla. Così, come non lo è stata l'ipotesi originaria di Riemann, è improbabile che tutte le congetture di Langlands saranno dimostrate in tempi brevi. Ah, davvero? Ma potrebbero portare... così come non lo è stata l'ipotesi originaria di Riemann, è improbabile che tutte le congetture di Langlands saranno dimostrate in tempi brevi. Ecco, così mi torna come l'ho letta adesso. Ma potrebbero portare a scoperte spettacolari. L'ultimo teorema di Fermat, che ha dovuto aspettare 350 anni prima che il matematico britannico Andrew Wiles lo dimostrasse nel 1994, è proprio una loro particolare conseguenza. Infatti, anche nei libricini che spiegano questa cosa qua si fa continuamente riferimento a questi numeri piadici e praticamente ogni passaggio di quella dimostrazione tira dentro questi numeri piadici. A marzo Langlands ha ottenuto l'altro grande riconoscimento nel campo della matematica, il premio Abel, per il lavoro svolto nella sua vita. Ci è voluto molto tempo perché l'importanza delle idee di Langlands fosse riconosciuta. Probabilmente Schultze non dovrà aspettare tanto, e noi ce lo auguriamo proprio perché deve essere una brava persona, intelligentina parecchio, ma tanto. E poi ci sarebbero anche due note che forse dovevo leggere prima, ma siccome sono note io le leggo dopo, cioè se mi avete seguito fino ad adesso a questo punto vi meritate anche, se non avete capito niente, di leggere le due note in cui si spiega uno, nota sull'ipotesi di Riemann. Che cos'è questa ipotesi di Riemann? I numeri primi sono gli atomi del sistema numerico perché sono indivisibili per qualsiasi altro numero intero diverso da uno. Sono infiniti e non si riesce a capire quale schema seguano, ma la loro frequenza può essere misurata. È l'ipotesi del matematico tedesco Bernhard Riemann, formulata nel 1859, e che questa frequenza segua una regola determinata da un'espressione matematica, oggi nota come funzione z di Riemann. Da allora la validità dell'ipotesi è stata dimostrata per i primi 10 miliardi di numeri primi, pensa che sbattimento, calcolati a mano uno a uno, ma la prova assoluta non è stata ancora trovata. Per capire l'importanza di questo problema, considerate che è stato incluso nella lista dei 7 problemi del millennio, compilata niente poco di meno che dal Clay Mathematics Institute dal New Hampshire nel 2000, e chi riuscirà a risolverlo vincerà $1 milione. Quindi se vi volete cimentare, ci avete $1 milione in palio, cioè secondo me fate prima a fregarvene onestamente e fare la vostra vita, però se vi volete cimentare siete pazzerelli, via così. Allora, questi numeri piadici invece, ora la spiegazione dei numeri piadici io me la salto perché è troppo difficile da leggere, non tanto per la complessità della cosa, ma perché per rappresentarlo bene vi devo leggere, o per farlo capire con gli esempi, qui fa gli esempi con i numeri in base 2, quindi binari, e quindi mi devo mettere a leggere 1, 0, 1, 0, 0, e non c'ho voglia perché in radio tanto non si capisce niente, però volendo vi cercate queste cose sull'internet e le trovate di sicuro. Ora che vi siete stati sottoposti a questo esperimento di divulgazione scientifico-matematica in radiofrequenza, non è vero perché non ci abbiamo la frequenza, però si è rotto il trasmettitore, però comunque in viva voce dal podcast, vi lascio ancora un po' di musica per farvi riprendere, poi magari ancora una notiziola di quelle buttate là, e poi chiudiamo questa puntata che ormai sono andato praticamente lunghissimissimissimi. Father of the light, you When the light shines, you run it out. The darkness is when you find your light. E come vedete, anche la musica appunto ci accompagna, dalla frenesia del jazz prima, quando c'è stata l'apoteosi, capito? E siamo arrivati all'apice. All'apice dell'articolo che vi ho letto prima, a parlare appunto della complessità, delle ultime frontiere della matematica, quelle che risolveranno e dimostreranno l'ipotesi di Riemann, e ne siamo convinti e sicurissimi proprio, e poi ci interessa tantissimo. E comunque, e appunto, da ora che c'è stato il calo, c'è il down, nel senso che avete sentito tutto ora siete anche voi partecipi di questo, diciamo, di questo giubilo, e quindi ci avete bisogno, capito, come nel post-orgasmo, di riprendervi un attimo, e quindi anche la musica è calata. E vi concludo così la puntata con un articolo che ho scovato qua sulla rete, che parla di un nuovo paradigma per quello che si chiama il treat hunting, anzi no, il termine è nuovo, è già nuovo anche il termine, sostanzialmente è un ripensamento della sicurezza informatica, che parte dal fatto che tanto comunque non c'è niente da fare sostanzialmente, e bisogna ripensare tutto da capo, cioè tutto sbagliato, è tutto da rifare. Cioè si parte dall'idea che tanto comunque i vettori d'attacco sono sostanzialmente troppi, che il paradigma che si utilizza basato su exploitation e post exploitation, cioè ti buco e poi le fasi sono un po' i due, nel senso che si ricerca l'attacco o si ricerca il post per individuare il problema. Ecco, questo tipo di approccio non funziona più, è necessario riformare tutto, inventare qualcosa di completamente nuovo, che sia, diciamo, espressione di un pensiero out of the box, una cosa del genere. Bisogna avere dei nuovi acronimi, e quindi diciamo questo treat hunting si basa su alcuni acronimi molto fighi, tra i quali SIEM, cioè Security Incident and Event Management. Poi bisogna saper dire anche EDR, cioè Endpoint Detection and Response, e poi anche NDR, che è Network Detection and Response. Se avete appreso questi tre paradigmi, già siete a metà dell'opera. Quello che manca sostanzialmente per farne un vero must dell'internet e della sicurezza sull'internet è la parola cloud. Infatti c'è cloud based SD-WAN. Un SD-WAN è una software defined wide area networking, e l'approccio cloud serve per forza, nel senso che senza cloud qua non si va da nessuna parte. Non capisco bene dove si voglia arrivare. Comunque sostanzialmente quello che vi serve è, anzitutto dovete avere un cloud, una rete con la quale poi sondate la rete del vostro cliente, sostanzialmente circondandolo, sembra qua, oddio, sì, dai disegnetti sembra lo circondate, ecco, e una volta che l'avete circondato con il cloud, grazie a questo nuovo modello treat eccetera, praticamente non... Ecco, da qui si capisce bene da quest'altro disegnetto che Zack, individuata la minaccia, è fatta, quindi praticamente con questa roba qui non vi dovete più preoccupare di niente, cioè non serve più spiegare le password, cioè non serve più, non devi cliccare all'impiegato, non cliccare sull'attach che poi mi pigli il virus, non importa più niente, cioè ve ne potete fregare, perché tanto siete circondati dal cloud, e cloud, zac, quando arriva l'attacco lo ferma, cioè Sì, funziona così. Cioè si parte dall'idea che tanto la maggior parte delle aziende ha talmente tanti vettori d'attacco che comunque se non sono già bucate lo saranno dopodomani e quindi si rifonda tutto quanto con questi nuovi acronimi e da questo nasce attraverso la magia del cloud questo nuovo approccio alla sicurezza che sarà senz'altro vincente e ci condurrà a un avvenire meraviglioso, credo. Sì. E comunque, se volete approfondire questa cosa che io ho spiegato così bene con entusiasmo, cercate, tipo qua cita come esempio di questa roba la Cato Networks, che non lo so, sarà quella che ha pagato l'articolo, presumo, e che appunto utilizza questo sistema innovativo e senz'altro ne rimarrete soddisfatti, quindi vi consiglio l'acquisto per la vostra infrastruttura informatica. Anche qui a Radio Wombat ci stiamo seriamente pensando e con questo chiudo la puntata di oggi. Vi do appuntamento al prossimo lunedì per un'altra frizzantissima puntata di Coccoli al Silicio. Penso che ci sarò davvero, perché tanto fa caldo e si schianta quando vado, e poi anche se vado via piove e quindi chi se ne frega, sto qua.